Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. Bentornati all'ascolto. Questa puntata, come di consueto, va in onda grazie a Gloria Guerrera, la nostra redattrice, Alessandro Chiappini, il nostro regista, ed è una puntata che sarà guidata da un nostro caro amico Aldo Maria Valli. Benvenuto. Grazie Filippo, grazie. Poi con una, diciamo, dizione che purtroppo si è diffusa, anche Aldo Maria Valli viene definito giornalista vaticanista, in realtà è anche scrittore, diciamo giornalista tout court basterebbe, avanzerebbe, però diciamo, siamo il paese delle etichette. Diciamo cronista, va. Diciamo cronista. Comunque la sua storia è una storia così, di un giornalista per vocazione, visto che già durante il liceo, per coltivare questa sua passioncella, allora faceva il correttore di bozze, scriveva articoletti, è laureato in scienze politiche all'Università Cattolica ed ha attraversato diverse testate fino ad arrivare alla testata principale che è il TG1. Collabora a diversi giornali, ha scritto diverse pubblicazioni e io vorrei soprattutto ricordarvi qualcosa di molto interessante, perché c'è una famosa teoria del fischietto scritta insieme alla moglie Serena, che è un manuale di, diciamo così, sopravvivenza, diciamo così, per famiglie nell'era del consumismo. Si intitola Nudi e crudi, è 2004. E poi ci sono anche altri libri, ve li cito: Formato famiglia, Noi la linea, In cielo e in terra, Un papà, i suoi figli e il padre nostro, Affetti speciali, Cronaca di un papà in cerca di perché, Per le vie del mondo, 14 viaggi, Giovanni Paolo II, La palla è rotonda, Lettere da bordo campo a un figlio adolescente, I giorni alla colomba, Viaggio nella pace possibile, Favole a merenda, Piccole storie sulla felicità, Dio non vuole la guerra in Iraq, Intervista con Slamon Varduni, Vescovo di Baghdad, Nudi e crudi, corso di sopravvivenza per famiglie nell'era del consumismo, La porta accanto, diario di un viaggio nella Turchia di Bartolomeo I del piccolo gregge cristiano, e ora ha in libreria due libri, Il mio Carol, così facile da comprendere, insomma, come sia nel cuore di tutti, Giovanni Paolo II, anche di coloro che l'hanno seguito durante quasi tutti gli anni del pontificato. È un bellissimo libro intervista, o comunque una riflessione a quattro mani, con Luigi Bettazzi, l'indimenticabile vescovo di Ivrea, ora emerito, intitolato Difendere il Concilio, sottotitolo Quando parla del Concilio, il suo Concilio, Monsignor Bettazzi, è un fiume in piena. Un libro molto interessante perché è scritto anche, non solo con il cuore, ma anche con la mente e con i ricordi di un protagonista. Da dove partiamo per questo nostro piccolo viaggio, Aldo? A dove vuoi tu? Prima di tutto, non penso mai che ho scritto così tanto. Sentire citare tutti i titoli in fila mi fa un po' impressione. E mi sono portato una frase a cui sono affezionato, che è una frase importante perché è stata pronunciata niente meno che da Gesù. Ora, non è che io mi occupo soltanto di cose religiose, visto che faccio il vaticanista e quindi sono obbligato solo alle sacre scritture, questo no. Però, se devo essere sincero, questa frase da un po' di anni mi accompagna veramente. Da quando ce l'ha ricordata Giovanni Paolo II, appunto, il mio caro, il mio Papa, mi sono permesso di definirlo così perché ha accompagnato davvero tutta la mia vita, è diventato Papa quando io avevo 20 anni, poi dal 96 l'ho seguito anche come giornalista ed è un uomo, un pontefice che ha segnato in diverse occasioni la mia vita. E lui, quando finì il giubileo del 2000, eravamo all'inizio del 2001, e fece un po' un bilancio e diede anche un'indicazione alla Chiesa, disse: beh, e adesso fatto il giubileo, dove andiamo? E citò le parole che Gesù rivolse a Pietro, il pescatore Pietro: prendi il largo, duc in altum. E questo prendere il largo mi ha colpito come uomo, mi ha colpito come professionista dell'informazione, come marito e come genitore. Citando i titoli dei libri, ti sarai accorto che torna spesso questa, storia della famiglia, dei figli, perché io di figli ne ho 6 che vanno dai 23 anni ai 9 anni, sono 5 femmine e un maschio, e sono un po' la mia fonte privilegiata di ispirazione. Questi ragazzi mi portano in casa il mondo, mi portano in casa tante idee, il loro vissuto, i loro incontri, i loro sogni, le loro aspirazioni. E loro sanno benissimo che questo Duc in Altum da un po' di tempo fa da colonna ispiratrice della mia vita. Tanto è vero che quando ho detto che sarei venuto qui e avrei dovuto portare con me una frase, subito mi hanno detto: ah, Duc in Altum. Sapevano già dove sarei andato a parare. E su questa, ecco, pensavo di riflettere un pochino con te, Filippo. Bene. Beh, è una frase, diciamo così, quasi in controtendenza, perché è vero che i temi della crisi sono diventati più stringenti negli ultimi mesi, ma che questi fossero anni difficili, insomma, magari più lucidi, ce lo stavamo raccontando già da qualche anno. Quindi in realtà, mentre tutti ci invitano a guardare in basso per non cadere ancora più in basso, tu hai scelto come motto per la tua famiglia qualcosa di ben diverso. Ma sì, in queste tre paroline latine c'è tanto, veramente tanto. Bisogna pensare a questo Pietro impaurito sulla barca e a Gesù che, dovendogli dare un insegnamento che fosse importante per gli apostoli e fosse anche alla loro portata, lo esorta a prendere l'arco per gettare le reti, per diventare ovviamente pescatori d'uomini, intendeva lui. Ma il pescatore Pietro aveva in mente anche l'aspetto pratico della faccenda, ovviamente lui voleva pescare pesci. E dunque questo Duc in Altum ha una valenza che è sia, diciamo, religiosa e filosofica nel senso più ampio, però ha una valenza anche che riguarda la vita di tutti i giorni, proprio i nostri comportamenti comuni, quotidiani. E che cosa può voler dire per un uomo di oggi, per un cristiano di oggi quale io sono? Io credo possa voler dire avere sempre presente che il nostro orizzonte non si esaurisce nelle cose che facciamo e che magari facciamo anche con tanta passione, come appunto il mio lavoro di giornalista, ma c'è un orizzonte più grande che riguarda la nostra responsabilità come uomini, come persone, la testimonianza che noi portiamo, proprio nei comportamenti comuni. Per esempio, ecco, come genitore non basta, credo, che io dia delle indicazioni ai miei figli, che raccomandi loro di comportarsi onestamente, di essere persone rette, di seguire alcuni insegnamenti, ma credo che sia importante prima di tutto proprio l'esempio che io do con la mia vita, con la mia parola, con i miei atteggiamenti. Ecco allora che questo Duc in Altum mi ispira, almeno vorrei che potesse ispirarmi in ogni momento, nonostante le cadute, nonostante le debolezze, e soprattutto mi aiutasse a non immiserirmi. Io lavoro in un ambito, quello dell'informazione, nel quale, ahimè, vedo spesso come le persone possono essere anche vittime del protagonismo, di un certo narcisismo, ma questa, come dire, questa indicazione di Gesù, prendi il largo, mi aiuta anche a spogliarmi un po' di me stesso, a vedere le cose in una dimensione più ampia, e di qui credo arrivi anche il modo di svolgere il mio lavoro un pochino meglio. Io non dimenticherò mai che la mia maestra elementare, avevo 8 anni, quando le dissi che da grande avrei voluto fare il giornalista, lei mi prese molto sul serio e molto seriamente mi disse: bene Aldo, complimenti, ti sei scelto una bella strada, ricordati che fare il giornalista vuol dire mettersi al servizio. E io non dimentico queste parole della mia lontana maestra elementare. Mettersi al servizio, ecco, è un altro modo per dire Duc in Altum. Prendi il largo, pensa a chi ti rivolgi, pensa alla responsabilità che hai. Aldo Maria Valli, siamo partiti con una frase del Papissimo, proprio citando il suo ultimo libro in libreria, Il mio Carol, edizioni Paoline. Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo e di Aldo Maria Valli, la nostra guida questa settimana. Stavamo così commentando non i temi ma il grande contenuto di uno dei suoi due ultimi libri attualmente in libreria, Il mio Carol, edizioni paoline, sulla vita di Giovanni Paolo II, che così io ricordo non solo nel 2001 ma anche in quel luminosissimo giorno di agosto, suo ultimo viaggio a Lourdes 2004, il 14 e 15 agosto, giorni veramente sconvolgenti. Però quel discorso a cui tu hai tratto la tua citazione, prendi il largo, il Papa dava anche un'immagine di Chiesa anche molto diversa, perché riprendendo le parole di Agostino diceva ai suoi fratelli nella fede, Chiesa canta e cammina. Cioè, forse anche questa, diciamo così, visto che di vaticanistica viviamo pure noi, una delle incrostazioni culturali più difficili da togliere da questo circo mediatico dove anche l'informazione religiosa viene trasformata spesso e volentieri in merce, cioè una rappresentazione di Chiesa sempre pronta a dire no, perché sempre pronta a parlare di etica e di morale, e sempre, diciamo così, a svolgere una funzione quasi fosse la sezione occidentale dell'Ufficio Mondiale profilassi igiene morale. Invece in realtà in una famiglia di sei figli ci si accorge più facilmente che ci sono innanzitutto tanti sì da dire, poi magari anche qualche no, ma... E c'è soprattutto tanta fiducia da dare, ecco, a proposito del duc in altum, del prendere il largo, tanta fiducia da dare a questi ragazzi perché non abbiano paura della vita, perché non abbiano paura dei rapporti, del domani. E questo della fiducia è un tema importante, credo lo sia sempre stato per tutti, in particolare per i giovani e soprattutto in tempi come i nostri, che sono percorsi così da paure sotterranee, magari spesso non dette, non esplicitate. Ma sai, Chiesa è parola singolare, però è parola dietro la quale si nasconde una realtà massimamente plurale. Quanti aspetti ha la Chiesa, quanti volti ha la Chiesa. Quindi c'è una gerarchia che è quella di cui troppo spesso forse ci occupiamo soltanto noi giornalisti specializzati. C'è un Papa, ci sono dei Vescovi, ma c'è anche un popolo di Dio, c'è una miriade di parrocchie, ci sono tanti sacerdoti, ci sono i religiosi, ci sono le religiose, i missionari. E allora quanti tipi di chiesa, quanti tipi di impegno, e soprattutto quando incontri queste persone che vivono in mezzo alla gente, come si dice oggi, sul territorio, scopri come con quanta difficoltà ma anche con quanta passione loro cercano di mettersi nei panni delle persone, delle loro vere esigenze. E tante volte io mi accorgo che per questi operatori religiosi, mi verrebbe da definirli così proprio perché operano vicini alle persone, è difficile davvero come dire, fare da mediatori tra questo insegnamento che arriva un po' dall'alto, da parte della gerarchia, e la possibilità poi di applicarlo, di rivolgerlo alle persone. Per esempio ricordo un sacerdote che mi parlava di questo problema della contraccezione sulla base anche delle ultime prese di posizione del Papa appunto in materia, questo divieto per i coniugi cattolici di usare la contraccezione e quindi la raccomandazione dei metodi naturali, ma lui mi diceva: come posso io far passare un messaggio di questo tipo a persone che ormai non avvertono neppure più questo uso come un peccato, è una cosa che non rientra assolutamente più nella loro vita, nella loro mentalità. Allora ecco, capisci che sforzo di mediazione culturale, prima ancora che religioso, devono fare queste persone, questi sacerdoti. E quindi la Chiesa è veramente grande, nella Chiesa sono presenti tante realtà, sarebbe bello che noi riuscissimo a raccontarle un po' tutte. Io in questo senso mi sento molto in colpa, perché poi nei limiti di spazio che noi sempre abbiamo si finisce invece poi per parlare soltanto dei vertici. Invece di Monsignor Luigi Bettazzi ricordo una scenetta molto divertente, quando Chiambretti faceva una trasmissione, si chamava Il Postino, andava in giro per l'Italia vestito da portalettere, andò a Ivrea, tentò di consegnare la sua videolettera all'ingegnere che allora dirigeva la Olivetti e non venne assolutamente ricevuto. Poi andò in episcopio, suonò alla porta, venne ad aprire il vescovo che lo fece entrare insieme a tutta la troupe, offrì il caffè, dei pasticcini, e Chiambiretti commentò: come cambiano i tempi, oggi è più facile parlare con un vescovo che con un ingegnere. Beh, con un vescovo come Bettazzi sì, però ahimè non tutti i vescovi sono uguali. Sì, però diciamo sì, quando parliamo di concilio poi in realtà ci sono degli aspetti, forse è più facile anche nel mondo dell'informazione raccontare, come dicono, adesso non ho capito se è un proverbio africano o asiatico, lo sento inculturato in diverse culture, è più facile sentire, raccontare il rumore dell'albero che cade piuttosto che il respiro della foresta che cresce. Cioè, in realtà nella quotidianità la Chiesa sta vivendo profondamente quello che poi è stato la grande svolta del Concilio, a ridurla, diciamo così, in quelle categorie anguste antropologia culturale, la prima assise del mondo globalizzato. Ma io credo che il grande insegnamento del Concilio sia stato quello del coinvolgimento, ecco, allora si torna al discorso di prima, di questo senso di simpatia, di passione in senso letterale, di patire insieme, di sentire insieme al popolo, alle persone, anche ai più lontani. In questo il Concilio indubbiamente ha rappresentato una svolta e credo che sia un insegnamento da tenere presente ogni giorno, anche oggi, che dovrebbe portare soprattutto ad ascoltare. Ecco, forse troppo spesso vengono proposti dei giudizi o delle sentenze prima ancora di ascoltare. È importante che la Chiesa ovviamente dica la sua, compito della Chiesa è anche quello di dare indicazioni, di dare una guida. Il pastore indubbiamente è colui che guida il suo gregge, ma come può esserci l'indicazione e la guida senza l'ascolto? Allora, a questo momento dell'ascolto deve essere fatto mescolandosi. E io ricordo una bella espressione del cardinale Martini, io sono ambrosiano di origine, quindi Martini è stato il mio vescovo per tanti anni, e lui dice: il pastore deve intercedere con la preghiera, ma intercedere anche nel senso letterale del verbo, che vuol dire camminare assieme, non stando sopra, non stando sotto, ma proprio sullo stesso piano, assieme, ascoltando. E credo che questo momento dell'ascolto sia fondamentale per poi trovare anche le risposte giuste. Sì, ma infatti a volte viene da sorridere così con la furia, anche diciamo la preoccupazione che hanno i laici di scrivere libri, però con la lettera introduttoria del Papa, quasi anche diciamo così il pensiero liberale abbia bisogno dell'imprimatur, dimenticando che invece dentro la Chiesa, cito dal tuo libro una citazione di Pietro Scoppola che a sua volta citava Santa Caterina da Siena, Rosmini, Dossetti, Don Sturzo, cioè diciamo un po' il cuore del pensiero cattolico, no? Tutti i cattolici che hanno obbedito in piedi. Scoppola si chiedeva: come possiamo aiutare la Chiesa a migliorarsi? Come possiamo dare mano alla riforma della Chiesa? La risposta: comportandosi da cittadini, non da sudditi, e standoci dentro, non fuori. Cioè, è un fatto strano il fatto che chi è cattolico tende, diciamo, pubblicamente quasi a volerlo negare perché ha paura di, perché una certa cattolicofobia, almeno a livello istituzionale e culturale, circola. Chi non è cattolico invece ha un sacco di fretta di farsi mettere il timbro parrocchiale o il timbro pontificio, sì, per dire: io comunque vado... Hai toccato un nodo interessante, che è un problema che avverto anch'io spesso, questo clericalismo dei laici che appunto hanno bisogno del timbro religioso. Di fronte a una Chiesa che col Concilio vuole declericalizzarsi. E invece la laicità di tanti cattolici. In fondo, se vogliamo trovare la vera laicità, come appunto quella di Scoppola, questo sentirsi appieno cittadini, molto spesso bisogna andare proprio tra i cattolici per trovarla. Dentro poi, tra l'altro, un insieme di interazioni dove appunto... sempre per citare Scoppola, il suo libro Un cattolico a modo suo, che poi è un po' il suo testamento perché è scritto durante la malattia che lo porterà alla morte, lui diceva: in fondo in realtà siamo noi cattolici laici tutti che dobbiamo farci carico non solo della fedeltà al Concilio ma anche della sua difesa, perché questo in realtà è stato un momento in cui la Chiesa si è autoriformata e si è aperta. Io ricordo la telecronaca della chiusura del concilio, l'8 dicembre 65, il telecronista che vedeva il corteo di vescovi di tutte le parti del mondo e definiva un corteo pittoresco, cioè gli passava la storia sotto gli occhi e non se ne accorgeva. Forse era forse troppa storia per lui. Forse non è che i cattolici oggi dovrebbero accorgersi che la storia sta passando sotto i loro occhi e sarebbero che incominciassero ad accorgersene. Questo è un grande peccato, sì. Io mi trovo un po' in imbarazzo nel parlare del concilio, nel senso che non l'ho vissuto per ragioni anagrafiche. Sono nato nel 58, quindi ero un bambino. Però è strano, ho sempre avvertito una sorta di nostalgia verso il concilio e l'aria che si respirava nella chiesa in quegli anni, pur non avendola vissuta, per quello che mi hanno raccontato i testimoni, per quello che ho letto, per quello di cui sono venuto a conoscenza. La nostalgia, ecco, di quel senso di fiducia che c'era in quei giorni, la fiducia che si potesse fare qualcosa per incidere, per cambiare aria, per togliere un po' di muffa anche alle sacrestie. È una fiducia che oggi invece non avverto più. Adesso troppo spesso avverto invece la tendenza a rinchiudersi nuovamente o comunque al sospetto, questa voglia di giudicare, e questo come dire ritirarsi un po' nell'essere profeti di sventura, quei profeti di sventura contro i quali se la prendeva invece Giovanni XXIII nel discorso di apertura del concilio, un discorso che non a caso iniziava con un'esortazione alla fiducia e alla gioia, Gaudet Mater Ecclesia, cioè si rallegra la madre chiesa. Ecco, se il concilio riuscisse ancora a comunicarci un po' di quel senso di fiducia sarebbe già una bella cosa. Aldo Maria Valli, autore con Monsignor Luigi Bettazzi di Difendere il Concilio, edizioni San Paolo, ma anche da solo autore di Il mio Carol, un libro su Giovanni Paolo II, li trovate tutti e due in libreria. Grazie Aldo per questa tua guida questa settimana. Grazie a te Filippo, ciao. Grazie a Gloria Guerrera, grazie a Alessandro Chiappini, grazie a voi, a risentirci.